Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Ridere fa bene allo spirito e al cuore, fa buon sangue, come dice un vecchio proverbio. A confermare una sensazione palpabile sono le ricerche scientifiche, che hanno dimostrato che la risata è un vero e proprio farmaco. Somministrata per 15 minuti al giorno, migliora la circolazione, previene le malattie cardiovascolari, rafforza il sistema immunitario. Non solo, riduce lo stress e l'ansia, migliora l'umore e i rapporti personali. Ecco perché il dottor Patch Adams, interpretato da Robin Williams nell'omonimo film del 1998, ha cominciato a usare la clown terapia negli ospedali. Sono Patch, studio medicina qui. Tu perché vuoi fare il medico? Non voglio aiutare. Noi vogliamo diventare medici per aiutare il prossimo. Il punto è che per diventare medici dobbiamo curare il paziente oltre che la malattia. Dobbiamo tuffarci nelle persone. Solo l'uomo è capace di ridere e può farlo per molti motivi. Perché è allegro, perché qualcosa che sente o vede gli sembra divertente, perché qualcuno gli fa il solletico. Per il filosofo Henri Bergson, che di questo tema si è occupato moltissimo, ridere ha una funzione ben precisa, e cioè di correggere tutte quelle forme di irrigidimento contro la vita sociale che non sono così gravi da essere sanzionate materialmente dalla legge o dalla morale, ma che tuttavia sono di intralcio alla cosiddetta normalità. Stare in una società, infatti, significa adattarsi costantemente agli altri, essere agili a trovare soluzioni quando non si possono usare i soliti schemi di comportamento. Perché si ride di qualcuno che inciampa? Perché è un imprevisto rispetto al normale andamento delle cose, e il riso è utile perché castiga la meccanicità. Il giornalista e scrittore Tiziano Terzani ha raccontato come nel ridere spesso, durante la giornata, risiede una delle chiavi della felicità. Perché una civiltà che non sorride è una civiltà infelice. E io trovo che ridere, proprio ridere, è una cura, è parte della guarigione. E infatti, non a caso, un'altra delle terapie che ho scoperto in India è la terapia del sorriso, no? Del ridere. La mattina, in un parco vicino a casa, una delle prime cose che notai, a parte gli uomini che davano da mangiare alle formiche, cosa che mi sorprese moltissimo, c'era questo gruppo che a una certa, dopo aver fatto un po' di yoga, a un certo ordine, alzavano la mano e dicevano: e quale modo migliore per cominciare una giornata che magari finisce in un ufficio ad aria condizionata. Al bisogno di ridere hanno risposto nei secoli il teatro, la letteratura, il cinema, la televisione. Ognuno con i suoi mezzi, ognuno con il suo stile e ognuno con i suoi professionisti. Persone che hanno fatto dell'urgenza di far divertire gli altri la propria vita e che hanno donato ai loro contemporanei il talento di cui sono stati dotati. Tra questi ci sono i nostri due protagonisti di oggi, due attori brillanti che insieme hanno rivoluzionato la commedia con le loro buffe espressioni e i loro continui battibecchi. Sono la strana coppia Jack Lemmon e Walter Matthau. Jack Lemmon e Walter Matthau. La New York che conosciamo oggi è una sola grande città dall'inizio del Novecento, quando Manhattan viene accorpata alla città indipendente di Brooklyn e con alcune aree esterne. Un'area urbana così vasta rende necessari consistenti investimenti per l'incremento della mobilità fra i vari quartieri. Se nel 1904 viene inaugurata la metropolitana, nel 1909 è la volta del ponte di Manhattan, mentre il Grand Central Terminal, all'epoca una delle maggiori stazioni ferroviarie del mondo, vede la luce nel 1913. New York accentua esponenzialmente il suo carattere di centro mondiale per la cultura, l'industria, l'economia e le comunicazioni. E tra le mille gru che costruiscono i grattacieli che formano oggi il suo celebre skyline, nasce nel 1920 il piccolo Walter, Sul suo cognome natio resistono ancora oggi due diverse versioni, alimentate dallo stesso Walter, che ha sempre amato scherzare sull'argomento. C'è chi lo dà per Matuszan Skawoski, impronunciabile cognome con cui si è fatto accreditare per un cameo in Earthquake di Mark Robson. E c'è chi lo vuole Mattow e sostiene che l'abbia cambiato in Mattow per renderlo più esotico. Cambiamenti così vorticosi in una città creano anche il rovescio della medaglia di un impetuoso progresso. Per esempio, un forte aumento della criminalità favorito anche dalle leggi proibizioniste e una diffusa povertà. Anche la famiglia di Walter Mattow è tutt'altro che benestante. Mamma Rose e papà Milton, immigrati ebrei di origine russa, fanno fatica a sbarcare il lunario e in casa non si mangia tutti i giorni. Per questo motivo, quando è ancora soltanto un bambino, Walter viene mandato a lavorare. Non che sia l'unico della sua età a farlo, è un periodo in cui a scuola non ci possono andare in molti e lui va in giro a vendere gelati. È il 1925 e intanto, in un sobborgo di Boston, sta nascendo Jack Lemmon. Newton, Massachusetts. Strade tranquille, case ordinate alle porte della capitale dello Stato. La signora Mildred aspetta Jack, il suo primo e ultimo figlio, che ha così tanta fretta di nascere da non lasciarle nemmeno il tempo di entrare in sala parto. E infatti viene alla luce sull'ascensore dell'ospedale, che per un guasto si è bloccato proprio in quel momento. Papà John, ricco presidente di una fabbrica di ciambelle, ha tutti i requisiti in regola per viziare il suo impaziente bambino. Papà portava sempre a casa le ciambelle al cioccolato e quelle colorate. Erano buonissime e tutti gli altri bambini non vedevano l'ora di essere invitati a casa mia. Credo di aver usato questa cosa per avere sempre un sacco di amici intorno. Se in ogni coppia comica a provocare la risata è il grande conflitto che c'è tra i due, è il caso di dire che già da ora Mattow e Lemmon non potrebbero essere più diversi. Pratico e abituato alla vita della strada il primo, con un'innata eleganza il secondo. Buffo e combina guai Walter, ordinato e rispettoso Jack. Ci vorranno ancora molti anni prima che il destino li metta sulla stessa via, ma quando lo farà, sarà per sempre. Quando Mattow un giorno entra in casa e annuncia che vuole fare l'attore, i suoi genitori, in tutt'altre faccende indaffarati, lo liquidano con un commento in puro sarcasmo ebraico. Ma Walter, determinato a non mollare, riesce a convincerli ad assecondare il suo desiderio. Ha circa 20 anni, quando entra a far parte dello Yiddish Theater. Passavamo giorni interi a provare e riprovare commedie sul palco polveroso del teatro. Ricordo che ogni tanto qualcuno si faceva male perché inciampava in un chiodo o perché c'era qualcosa che era finito dove non doveva essere. Ridevamo moltissimo. Eravamo un gruppo ben assortito di tutte le età. Eravamo diversissimi tra noi, ma accomunati da una grande cosa: la nostra origine ebraica. Per gli ebrei, l'umorismo è la risposta alla tragedia della vita. Le storielle divertenti, chiamate wits, spesso con un retrogusto di morale, raccontate d'abitudine dagli stessi rabbini come esempi di vita, hanno contato moltissimo nella costruzione dell'identità di un popolo destinato ad essere errante. Non ci si ferma davanti a nessuno, neanche davanti al proprio Dio, anzi, la relazione tra credente e Dio sul piano umoristico è di parità. Non si tratta di ironia e nemmeno di comicità, eppure c'è un legame profondo con entrambe. Tutte le certezze vengono messe in discussione per aprire il pensiero all'imprevedibilità delle cose. Malinconia e leggerezza, gusto per l'assurdo. Se nulla ha senso, perché dovrebbero averlo le battute? Woody Allen, di tutto ciò, è da sempre un grande maestro. Il secondo matrimonio di Zelig Senior si contraddistingue per i litigi continui e violenti. Tanto che, sebbene la famiglia abiti sopra un bowling, è proprio dal bowling che giungono lamentele per il rumore. Da bambino, Leonard viene preso di mira dagli antisemiti. I genitori, che non prendono mai le sue difese e gli addossano sempre la colpa di tutto, parteggiano per gli antisemiti. Spesso, per punizione, lo rinchiudono in uno sgabuzzino al buio. Quando sono arrabbiati per davvero, entrano nello sgabuzzino con lui. Sul letto di morte, Morris Zelig dice al figlio che la vita è un incubo di dolore senza nessun senso. E l'unico consiglio che gli dà è conservare bottiglie vuote. Mentre il giovane Walter Matthau a New York, barcamenandosi tra un lavoro e l'altro per sopravvivere, incomincia a recitare nello Yiddish Theater, a Boston Jack Lemmon, che è figlio di un ricco uomo d'affari della zona, si iscrive alla prestigiosa Università di Harvard. Frequenta serio e diligente i corsi di arte drammatica ed approva delle sue doti attoriali sui palchi del campus. Ma è impossibile per entrambi ignorare un evento drammatico che sta scuotendo il pianeta, la Seconda Guerra Mondiale. Walter Matthau si arruola nell'aviazione per combattere il nazifascismo da soldato dell'esercito americano. Jack Lemmon prende la laurea e con la fine della guerra prova a mantenersi facendo l'uomo di spettacolo. Non che il momento gli offra grandi ingaggi, ma le serate da pianista di piano bar gli danno l'occasione di farsi le ossa sul campo, nonché di essere notato dai primi produttori radiotelevisivi che gli offrono piccole parti di poca importanza. Anche Matthau, una volta rientrato in patria, lavora a Broadway e per il piccolo schermo che in America, al contrario dell'Italia, sta già avendo discreto successo all'interno del variegato mondo dei mass media. Il suo volto dai lineamenti marcati e i suoi modi rudi influenzano l'inizio della sua carriera, relegandolo per tutti gli anni 50 a ruoli minori da caratterista. Finché nel 1955 Burt Lancaster lo vuole per Il vagabondo delle frontiere e due anni dopo, nel 57, Elijah Kazan lo dirige in Un volto nella folla. Avete chiesto un parere professionale e io devo guardare l'immagine su quello schermo come un attore qualsiasi di un mio spettacolo. E se vuole un parere, lei non la spunterà mai col mio pubblico, cioè con i 60 milioni di persone che tutte le settimane mi applaudono nelle loro case. E se lei non convince me, si rende conto di ciò che vuol dire? Se lei non convince me, quei 60 milioni non sono maturi per buttarla su quel seggiolone che sta dentro la Casa Bianca. Un volto nella folla, critica feroce dell'industria culturale e dei mass media, per ammissione dello stesso regista, è troppo in anticipo sui tempi per avere successo. La trama si regge su un equilibrio perfetto tra tragedia e satira. Lonesome Rhodes, cantante girovago dell'Arkansas, grazie all'aiuto di una giornalista spregiudicata, esordisce in un programma radiofonico e diventa un folk singer di fama. Carismatico e megalomane, conquista le folle televisive al punto tale da riuscire a influenzare il pubblico sia nella pubblicità che nelle elezioni politiche. Walter Matthau, nella parte di Mel Miller, è bravissimo e già si intravedono nella sua recitazione quelli che di lì a poco sarebbero diventati i suoi tratti distintivi. Espressione sornione, tendenza a brontolare su qualsiasi cosa, mimica in grado di passare con agilità da un registro drammatico a uno comico. Per Kazan avevo interpretato un ruolo di secondo piano, ma stavo iniziando a lavorare con grandi registi e per me era un momento meraviglioso. Ricordo che una volta Kazan mi fece i complimenti e io non smisi di pensarci per tutta la sera. Certo, non ero ancora famoso, ma il tempo stava dando ragione a me. Ero davvero fatto per recitare. Mentre lo scapestrato Matthau muove i primi felici passi nel mondo del cinema, Jack Lemmon, laureato brillantemente ad Harvard in arti drammatiche, si avvicina anche lui a Hollywood. I due non potrebbero essere più diversi, ma nel loro destino c'è scritto che saranno indissolubilmente legati. Destini incrociati. A Destini incrociati siamo alla fine degli anni 50 e il destino sta per far incontrare due uomini che non potrebbero essere più diversi. Il primo si chiama Walter Matthau, è nato a New York da genitori ebrei e fin da piccolo, quando vendeva gelati per le strade del suo quartiere, è abituato a rimboccarsi le maniche per guadagnarsi da vivere. Jack Lemmon, invece, 5 anni di meno, è cresciuto in una bella casa di Boston, circondato da amici che non vedevano l'ora di assaggiare le ciambelle al cioccolato che suo padre, brillante presidente della fabbrica, portava a casa. Tutti e due i ragazzi hanno deciso che avrebbero recitato, ma il percorso che li ha portati a Hollywood non è stato lo stesso. Lo Yiddish Theater è il punto di partenza per Mattau, la facoltà di arti drammatiche nella prestigiosa università di Harvard, quello di Lemmon. Poi per entrambi c'è stata la radio, la televisione e infine il cinema. Mattau ha recitato per Burt Lancaster ed Elia Kazan. Lemmon, dopo aver esordito come protagonista in La ragazza del secolo, entra nel cast di Mr. Roberts. I've been aboard this destroyer for 2 weeks now, and we've already been through 4 air attacks. I'm in the war at last, Doc. I've caught up with that task force that passed me by. Finché nel 1955 Burt Lancaster lo vuole per Il vagabondo delle frontiere e 2 anni dopo, nel 1957, Elia Kazan lo dirige in Un volto nella folla. La storia di La nave matta di Mr. Roberts, questo è il titolo in italiano, è ispirata a un romanzo di Thomas Hagen. Su un mercantile americano nel Pacifico, durante la Seconda Guerra Mondiale, il tenente Roberts prende le parti dell'equipaggio contro un capitano nevrotico e dispotico. L'interpretazione frutta a Lemmon un Oscar come migliore attore non protagonista. Neanche a dirlo, lui è incredulo. In fondo ero solo agli inizi. Non avrei mai pensato di prendere un Oscar così presto. Non credevo alle mie orecchie quando mi hanno detto che avevo ricevuto la nomination. Figuriamoci quando mi hanno consegnato la statuetta. Mi tremavano la voce e le mani per l'emozione. Con in mano la statuetta più ambita a soli 31 anni, Jack Lemmon viene corteggiato dai grandi dello Star System. Elegante nell'aspetto e raffinato nei modi, è il candidato ideale per il nuovo progetto di Billy Wilder, la commedia A qualcuno piace caldo. Si tratta della storia di 2 musicisti che nella Chicago del proibizionismo assistono al massacro di San Valentino per opera di Al Capone e sono costretti a scappare travestiti da donna. Indimenticabile la frase finale del film. Ho telefonato a mamma, ha pianto dalla felicità, ti darà il suo vestito da sposa e di merletto bianco. Come non posso sposarmi con l'abito di tua madre? Vedi, io e lei non siamo fatti allo stesso modo. Qualche colpo di forza. Allora te lo scordi? Oswald, voglio essere leale con te, non possiamo sposarci affatto. Perché no? Beh, in primo luogo non sono una bionda naturale. Non mi importa. E fumo. Fumo come un turco. Non mi interessa. Ho un passato burrascoso. Per più di 3 anni ho vissuto con un sassofonista. Ti perdono. Non potrò mai avere bambini. Li adotteremo un po'. Ma non capisci proprio niente, Oscar. Ah, sono un uomo. Ma nessuno è perfetto. Marilyn Monroe, in quella che risulterà una delle sue migliori interpretazioni sul set, ha qualche difficoltà a imparare le battute esatte e spesso serve l'intervento di Lemmon per calmare l'esasperato regista. Lei, in cambio, alla presentazione del film lo definisce l'uomo più divertente del mondo e tutto il mondo, tra poco, incomincerà a pensarlo davvero. I couldn't aspire to anything higher than to desire to make you my own. Ba-dum-ba-dum-ba-doodly-dum-boo. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. La sofisticata commedia A qualcuno piace caldo è un grandissimo successo e Jack Lemmon, grazie a Billy Wilder, scopre di avere un talento comico naturale. Marilyn insiste per lavorare ancora al suo fianco, ma quando iniziano le riprese de L'appartamento, sta girando Facciamo l'amore ed è pertanto costretta a rinunciare in favore di Shirley MacLaine. Poco dopo la Monroe muore e anche in Irma la dolce Lemmon viene affiancato dalla MacLaine. Che cosa sa di quell'albergo lei? Casanova ci ha dormito nel 1763. Non parlo del 1763, da quando sono qui ho visto 4 coppie entrare là dentro. Ah, il lunedì è sempre una giornata fiacca. Detto fra noi, non avrebbe una vaga idea di quello che fanno là dentro? Ne ho un'idea ben precisa. Vanno a fare l'amore. Ma è illegale. Ciò dimostra in che razza di mondo viviamo. L'amore è illegale, ma l'odio no. Si può odiare chiunque, in qualsiasi momento, dovunque. Ma se vuoi un po' di calore, di tenerezza, un sorriso che ti allieti, una spalla su cui piangere, ti devi nascondere negli angoli oscuri come un criminale. Qua. Mentre ormai Lemmon è un attore della fama consolidata, nonché il favorito di Billy Wilder, anche Walter Matthau, quasi 2 metri d'uomo, si sta facendo le ossa alternando musical come Ciao Charlie di Vincente Minnelli al cinema. Noi due sconosciuti di Richard Quine, A prova di errore di Sidney Lumet e Sharada, il giallo rosa diretto da Stanley Donen, con Cary Grant e Audrey Hepburn. Stavo pensando a Charles e a Scobie e a chi toccherà la prossima volta. A me? Non credo che tu sappia chi sia l'assassino, vero? No, non ancora. Quello che rimarrà vivo per ultimo sarà quello che vincerà la corsa, vero? Che vorresti dire? Che io ho ucciso Charles e Scobie? Cosa devo fare per convincerti di no? Devo diventare la prossima vittima? Sarebbe già qualcosa. Il destino di entrambi sembra ormai segnato, ed è quello del grande cinema a fianco dei protagonisti del periodo. Ma Billy Wilder, il re della commedia, decide di metterci lo zampino. Conosce benissimo Lemmon, lavorano insieme da tempo, si frequentano abitualmente nella vita, ma incontra Matthau per la prima volta a una cena da amici comuni. Naturalmente conosce il suo modo di recitare, l'ha già visto sullo schermo, e quando gli parla non ha bisogno di molto tempo per capire che la sua verve comica, messa insieme a quella di Lemmon, produrrebbe una coppia esplosiva. Wilder lo sa perfettamente che alla base della risata c'è il conflitto, uno scontro generazionale, fisico o di carattere. Qualsiasi differenza tra i due, purché si senta il contrasto. Lemmon e Matthau sono due straordinari clown cinematografici e potrebbero in due spartirsi i ruoli che sono alla base di un solidissimo principio della comicità: il pasticcione e la spalla. Da un lato la ragione, la perfezione, l'aspetto angelico, dall'altro i tratti rudi e i modi burberi. Ricordo che Wilder mi chiamò nel cuore della notte per dirmi che aveva trovato l'uomo perfetto da affiancarmi nel suo nuovo film. Mi parlò di Matthau e io dissi, beh, proviamo. Fu quello l'inizio di tutto. Hollywood, 1966. In The Fortune Cookie, che in italiano diventa non per soldi ma per denaro, Billy Wilder mette insieme per la prima volta Jack Lemmon e Walter Matthau. Durante una partita di football, l'onesto cameraman Harry Hinkle viene colpito accidentalmente dall'enorme giocatore Luther Boom Boom Jackson. Non si fa niente, ma suo cognato Willie Gingrich, avvocato senza scrupoli, lo convince a fingersi paralizzato e organizza una truffa ai danni dell'assicurazione. Sostenuti da una sceneggiatura di ferro, con battute ciniche e un ritmo incalzante, i due entrano nei panni che li accompagneranno per sempre. Scorbutico e polemico Matthau, dolce ed elegante Lemmon. Il primo, durante le riprese a causa di problemi cardiaci, perde 20 kg e per mascherare il rapido dimagrimento indossa per le scene che rimangono ancora da girare un pesante cappotto nero. L'interpretazione però gli frutta il suo primo e unico premio Oscar. Non lo voglio, porti tutto via, porti tutto via. Ne è sicuro? Lo mangi lei. Non vuole neanche il biscotto col bigliettino? E via. Deve leggere il biglietto dentro il biscotto. Che c'è scritto? Per qualche tempo potrete ingannare tutti, potrete ingannare qualcuno per sempre, ma... Fammi vedere. Questi cinesi, che ne sanno? You've got friends and neighbors, all the world is a happier place. Friends and neighbors, put a smile on the gloomiest face. Just take your little troubles and share them with the folks next door. Destini incrociati. A Destini incrociati siamo a Hollywood, è la metà degli anni 60 e il grande regista Billy Wilder ha appena messo insieme in Non per soldi ma per denaro la coppia inossidabile della commedia americana, Jack Lemmon e Walter Matthau. È stato grazie a Jack se sono riuscito a tirar fuori il meglio di me e a prendere addirittura l'Oscar. Con lui al mio fianco tutto diventa più facile. Avevo la spalla perfetta, potevo usare il mio cinismo contro qualcuno che sembrava totalmente disarmato e l'effetto comico è stato strabiliante. Wilder ha visto lontano, come sempre. I due sono magnificamente agli antipodi. Lemmon è raffinato, tranquillo, buono. Mattau, brontolone, cinico e polemico. Se il successo del film è grandissimo, loro due insieme vanno ancora oltre, diventando un punto di riferimento per tutte le coppie comiche che come loro vorrebbero essere. Nel 1968 il regista Gene Sachs, reduce dal fortunato A piedi nudi nel parco, li vuole per un film che vuole trarre da una commedia di Broadway che ha scritto lui stesso con Neil Simon. Un divorziato vive più o meno felicemente da solo e ospita un amico che sta soffrendo per la sua recente separazione. La convivenza si trasforma in una sorta di matrimonio, più per gli inconvenienti che per i vantaggi. Jack Lemmon e Walter Matthau sono la strana coppia. Questa è casa mia, Vinny. Se vuoi giocare con le fisse, giocaci pure, bellezza. Apro di un quarto di dollaro. Non guardi nemmeno le carte prima. A che serve? Ho deciso di bleffare. Chi vuole una Pepsi? La prendo io. Al mio amico Morre, il poliziotto, una Pepsi tiepida. Non hai fatto ancora aggiustare il frigo. Ormai sono due settimane. Lo credo che c'è puzza qui. Calma, calma. Se voglio dei cicchetti, torno a vivere con mia moglie. Io me ne vado. Chi vuole mangiare? Cosa c'è? Ho dei sandwich marroni e dei sandwich verdi. Quale preferisci? Che c'è nei verdi? O formaggio molto fresco o carne molto passata. Prendo il marrone. Sarai mica pazzo a mangiartelo. Oh, io ho fame. Ma sono due settimane che il suo frigo non funziona. Ci ho visto del latte che stava su da solo senza la bottiglia. Ma che sei diventato? Un salutista? Mangia, Morri, mangia. Io sei carta. Ecco, lo sapevo. Io ho tre assi. A monte. Ehi, lo sapete chi fa dei buoni sandwich? Felix, avete mai assaggiato quelli di stracchino con la paprika? Beh, senti, no. Deciditi. Poker o ricetta di cucina? Gonna try with a little help from my friends. Do you need anybody? I need somebody to love. Could it be anybody? I want somebody to love. Would you believe in a love at first sight? Yes, I'm certain that it happens all the time. La strana coppia è il racconto dell'impossibile sodalizio tra un personaggio troppo buono e uno irrimediabilmente cattivo. In poche parole, lo scontro caratteriale che Jack Lemmon e Walter Matthau si porteranno avanti per tutta la loro carriera. Matthau, il cinico e simpatico Oscar, e Felix, il dolce e un po' tonto Lemmon, diventano due dei personaggi più famosi della storia del cinema. E nel 2000 il film viene inserito al 17° posto nella classifica delle migliori 100 commedie americane di tutti i tempi. Billy Wilder a questo punto rivuole i suoi pupilli che insieme sono una bomba per Prima Pagina. Se ha qualche consiglio da darmi... Certo, ragazzo. Non finire mai una frase con una preposizione e non la cominciare mai con i due punti. E mai restare solo al cesso con Pensinger. Buddy Buddy, del 1981, ultima regia cinematografica di Wilder, è il remake della commedia francese Il rompiballe. Victor Clooney, interpretato da Lemmon, è un arrogante critico televisivo che viene abbandonato dalla moglie ed entra in crisi. Scopre che la donna lo tradisce con il suo psicanalista e decide di ritirarsi in un hotel per suicidarsi. Ma il killer professionista trabucco, impersonato da Matthau, che si trova nello stesso albergo per compiere un omicidio, lo salva appena in tempo. Ritmo serrato, battute folgoranti, due maschere comiche che ormai film dopo film sono entrate nelle case di tutto il mondo. E quando i due sono ormai due allegri signori, arriva con un titolo la sintesi di una vita passata insieme sulla scena e fuori. Due irresistibili brontoloni di Donald Petrie, a cui fa seguito Due improbabili seduttori. Buongiorno, signor Gustafsson. Tanto non me la bevo. Tu con quella bellissima donna? Sono il ladro di cuore, il gangster dell'amore. Gangster? Ora capisco. Gli hai buttato una pistola contro per farlo drizzare. Come non detto. Perfino le sue squallide battute di repertorio sembrano gustose e divertenti stamattina, signore. Va bene, Casanova. Dobbiamo andare all'Oktoberfest. I ragazzi ci aspettano là. Asimulu, cuculu. Per anni l'hai vista solo col binocolo. Non ti montare. Matthau, il burbero buono, viene stroncato da un infarto nel 2000 mentre è a Santa Monica, in California. Viene sepolto al Pierce Brothers Westwood Village Memorial Park, di fianco al suo eterno compagno Lemmon, che muore l'anno dopo. Già le loro stelle brillavano una accanto all'altra lungo la Walk of Fame, la strada della gloria. Al funerale di Matthau, Lemmon, affranto ma orgoglioso del percorso fatto insieme, ha detto poche e semplici parole, ma eterne, come i film che ci hanno lasciato. Con la morte si chiude una vita, non un'amicizia. I ain't looking to compete with you. Feed would crucify you. Oh.